con Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema, che distribuisce il documentario Westwood punk icona attivista di Lorna Tucker insieme a Feltrinelli Real Cinema dal 20 febbraio al cinema. Ben trovata. Ce Ciao, saluto a tutti. lo descrivi brevemente? Molto volentieri. Allora, questa volta la figura al centro del nostro film è un'icona che tutti secondo me conoscerete, cioè, se non altro ne avete tutti sentito parlare, Vivienne Westwood, che è conosciuta principalmente per essere una delle più grandi, insomma, stiliste inglesi, ma che ha costruito ormai un impero internazionale. Il film è raccontato da un'altra donna, Lorna Tucker, una ex modella, e qui al suo primo lungometraggio. Tra l'altro girato per 3 anni fianco a fianco alla Westwood, vuole appunto restituire un'immagine di Vivienne a 360 gradi, quindi non soltanto quindi raccontarla come stilista, ma anche come donna che comunque ce l'ha fatta da sola, una che comunque è l'emblema in qualche modo della self-made woman, da sola ha cominciato a costruire questo impero incontrando sul suo percorso figure mitiche, diventate mitiche leggendarie come il fondatore del Sex Pistols, McLaren, e si racconta tutto con tanto repertorio, con una lunghissima intervista in cui lei proprio dice se stessa, sempre molto, molto spontanea, molto spiazzante, provocatrice, tenera e feroce, come dice anche Lorna Tucker. È una donna che viene fuori proprio con una grandissima personalità, che poi è la stessa che è riuscita a trasferire nella moda che lei ha creato. Sin da bambina, a 5 anni, si faceva le sue scarpe, e poi ha inventato in qualche modo il punk assieme a McLaren. Ma il punk nella moda sicuramente è suo. Il film, appunto, è veramente prezioso perché è la prima volta che lei si concede così alle camere e racconta anche il suo attivismo attuale, perché lei ha 77 anni e sempre in attività, non ha smesso un attimo di lavorare non solo nella moda, ma anche super attiva nell'ambientalismo. Adesso è un attivista di Greenpeace e non si ferma mai, non si ferma mai. Il film appunto uscirà, come già dicevi, il 20 febbraio, a Milano in realtà lo abbiamo presentato anche nell'anteprima in occasione della Milano Settimana della Moda, la Fashion Week, e girerà in tutta Italia, a Roma sarà il 20 al Cinema Farnese. Speriamo che piaccia a tutti e che quindi venga riproposto anche in altre date successivamente, perché appunto è di grande ispirazione, sia come non solo per chi ama la moda, perché lei è comunque un personaggio che ha fatto anche la storia della cultura, degli anni, racconta la Londra di quegli anni, c'è tantissimo repertorio anche di accompagnamento al film che danno una visione a 360 gradi di quel che accadeva appunto dagli anni 70 fino ad oggi. Ecco, da quello che si vede nel documentario, non solo ha dato un importante contributo all'estetica punk, ma ha mantenuto anche una sua coerenza negli anni di donna libera. Per questo ha spinto tanto per mantenere la sua azienda entro certi limiti di importanza, perché voleva comunque un controllo totale sull'opera, su quello che veniva realizzato. Questo mi sembra molto interessante. Sì, assolutamente. Lei appunto non fa, insomma, le cose solo per vendere, cioè osserva proprio nel dettaglio tutti i pezzi che escono dall'atelier e approva qualsiasi cosa, proprio perché ha lavorato tanti anni per costruire il nome di Vivienne Westwood, quindi lo vuole preservare, vuole che sia effettivamente corrisponda a quello, alla propria personalità. E in quanto donna libera, assolutamente, anche nella vita privata. Lei comunque ha tirato su da sola 2 figli, ha alle spalle 2 matrimoni, se n'è andata quando sentiva il bisogno di andarsene, cioè è una donna molto coraggiosa che dimostra questa sua libertà anche appunto nella vita privata, ecco. Di Lorna Tucker cos'altro sappiamo? In realtà questo veramente ha girato precedentemente soltanto dei corti, è un'ex modella per l'appunto e questo è il suo primo lavoro che nasce da una conoscenza antica di Vivian West che ha ripreso, appunto, ripreso i contatti ed è riuscita per fortuna dopo tanta fatica, 4 anni di lavoro, a dare alla luce questo film. Non so quali siano i suoi progetti futuri, probabilmente continuerà perché comunque il film ha avuto un molto successo ovunque internazionale. Quindi penso che stia lavorando ad un altro progetto, però non ve lo so dire. Dove l'ha incontrato il film Anastasia? Questo film in realtà mi è stato consigliato e mi è stata mandata proprio il link dicendo: mio rivoluzione, deve assolutamente far parte del vostro catalogo. Wanted di Fentanelli al cinema. Io subito l'ho guardato perché ovviamente lei la conoscevo, ma non così bene. E ovviamente mi sono innamorata del personaggio più di prima e anche del film. Quindi, insomma, no, è arrivato, attraverso il link di un venditore, non l'ho quindi visto a festival, nonostante ne abbia fatti tanti, se non erro il primo è stato il Sundance dell'anno scorso, non di quest'anno. Che uscita sarà? In quante sale? Faremo un'uscita piccola vuol dire una ventina di sale, non piccola, anche perché in realtà i giorni sono tendenzialmente 2, 3, o addirittura qualcuno lo fa proprio come evento un giorno solo. E quindi è importante che ci sia una buona partecipazione di pubblico perché anche gli altri cinema, gli altri esercenti decidano poi di programmarlo e quindi il suo viaggio continui a lungo. E allora ricordiamo l'uscita in sala del documentario Westwood, punk icona attivista di Lorna Tucker, distribuito da Wanted Cinema insieme a Feltrinelli Real Cinema, in sala da mercoledì 20 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Anastasia Plazzotta, un abbraccio in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie a tutti, grazie. Ciao. Ciao.